24 mattino. Come dice la Lega? Padroni a casa nostra! Sono padrone a casa mia! E parliamone di sto padrone a casa nostra. Parliamone. Ma hai vinto un concorso tu? Questa qui? Hai fatto alle poste un master? Questa qui? È il semino bianco di tuo padre? Ti è uscito il pisellino bianco di tuo padre? Che ha fecondato la fichetta bianca di tua madre? Ma se lo schizzo del semino bianco di tuo padre fosse andato a fecondare la fichetta nera di una congolese, tu su Facebook c'eri uguale, ma era sotto la pubblicità del Save the Children, dice: date 2 euro a questo morto di fame e se non muore. E tu veramente ti senti arrogarti il diritto di stare qui per una sborrata? Amico mio, fly down. Cattivissimo Montanini, lo conoscete, il comico dei monologhi senza rete. E noi oggi qui parliamo di razzismo anche e di antisemitismo con la vicenda di Anna Frank, che dicevo è deflagrata su tutte le prime pagine, non solo in Italia ma nel mondo. Allora, la vignetta che vi racconto è ancora più cattiva, viene dal Fatto, è una vignetta con la divisa tipica del detenuto di Auschwitz, che come sapete è a strisce, è il cosiddetto pigiama a strisce, in questo caso bianche e azzurre, e la battuta di Beppe Mora è la nuova divisa della SS Lazio disegnata da Anna Frank. Questo per dirvi qual è il clima, ma iniziamo con la carrellata delle prime pagine. Libero: non è più tempo per Magnoni. Si vede che il direttore, ieri, il direttore di Libero, Senaldi, si è divertito a parlare con noi, e quindi continuano i titoli in romanesco: i mantenuti romani pretendono i nostri soldi. La sinistra schiera i suoi governatori delle regioni a statuto speciale contro Lombardia e Veneto. L'autonomia non è per tutti, non potete tenervi le tasse. Ma Zaia e Maroni rilanciano federalismo fiscale e libertà su 23 materie. Vittorio Feltri, l'editoriale: almeno pagatevi i conti al ristorante, intellettuali dei miei stivali col broncio, Renato Farina. È un diverso parere in cui sono tutte e due d'accordo. Il fascistellum del bugiardo, e c'è Renzi addirittura con l'orbace e la divisa del ventennio mussoliniana. Il fondo di Travaglio, ne leggerò una perla, un frammento: uomini o camerieri? La cattiveria: Renzi con il Rosatellum sarà corpo a corpo con il centrodestra, diciamo una scena elegante. Il Giornale: al lavoro un anno di più, giusto il focus sull'altra grande notizia del giorno. Il Giornale, diretto da Alessandro Sallusti, spiega: pensioni si cambia, viviamo a lungo e quindi faticheremo a lungo fino a 67 anni. E sul Rosatellum i bersagnani lasciano la maggioranza, perché questa è l'altra notizia del giorno. La spalla di Nicola Porro: caro Sala, Milano corre e nessuno deve rallentarla. Ce l'ha con il sindaco Slow e le sue interviste contro lo smog. È una polemica interessante e ovviamente merita di essere letta. Invece la spalla di apertura: Anna Frank fa litigare calcio e politica, sempre sul Giornale. Indignatevi per l'ONU, non per tre cretini. Fiamma Nirenstein, una delle firme più prestigiose, sapete, era una possibile ambasciatrice di Israele. La Stampa: da Tunisi all'Italia, la grande fuga degli ex detenuti. L'indulto ha liberato 2.700 persone. Lo scafista: il governo chiude un occhio e chiederà più soldi a voi per fermarli. Poi la foto, interessante, ieri una partita epica, bellissima per chi ama il calcio alla vista, Inter-Sampdoria 3-2 con una grande rimonta della Samp nel finale, ma qui il particolare che interessa nella polemica di oggi è la foto di Icardi che regala a uno dei bambini mascotte il diario di Anna Frank. Sarà letto negli stadi, cosa accadrà? Me lo chiedo e lo scopriremo. Avvenire: parità da realizzare, nel 2016 chiusi 204 istituti. Per invertire la rotta, proposto il costo standard, buono e misure fiscali. Si tratta di scuole cattoliche e c'è il grido di allarme di Avvenire. Io sono Di Francesco, il romanista, perché sta facendo una campagna e cita però le bellissime parole di Di Francesco: anch'io sono Anna Frank. Inusuale per un allenatore una presa di posizione così forte. Il Sole 24 Ore: in pensione 5 mesi più tardi. Il Sole apre giustamente sulle pensioni. L'Istat aumenta l'aspettativa di vita, la vecchiaia sale, cioè la pensione di vecchiaia, a 67 anni. L'adeguamento previdenziale, spiega il quotidiano di Confindustria, scatterà dal 2019. I sindacati contrari chiedono il blocco degli automatismi. E un altro titolo importante, il titolo di spalla, però ci dà un'informazione preziosa in queste ore. Banca Italia si rafforza Visco, entro domani la lettera di Gentiloni alla Banca d'Italia. Corriere della Sera. Allora, qui c'è un fondo su Schäuble, l'Europa, il passo indietro di Berlino, le priorità della Germania sono cambiate e diventano il pareggio di bilancio assoluto. E invece il soppalco, il titolo alto, è un po' frastagliata la pagina del Corriere. Legge elettorale, caos al Senato sulla fiducia, MDP va al Quirinale, via dalla maggioranza. E poi il titolo centrale, Stadi, basta antisemitismo. Il Tempo, polemico e controcorrente, e adesso punitoli tutti, ma c'è una foto di una scritta su un muro laziale ebreo. Cioè la tesi del quotidiano diretto da Chiocci è che si puniscono solo i tifosi della Lazio, mentre sono antisemiti tutti. La grande ipocrisia. Anna Franco, offese antisemite, il titolo del giorno, degli ultralaziali, lotito in sinagoga, ma il rabbino lo gela, ecco questo è l'altro punto importante, niente fiori, non bastano i fiori. E questa sono le code polemiche. La vergogna antisemita è il titolo della Midaili, poi il titolo del Corriere dello Sport che non ce l'ho qui sotto mano, non è ancora arrivato. Eccolo qua, scusami. Allora, la Gazzetta dello Sport è la vergogna antisemita, responsabili identificati, perché questo è molto importante, li hanno presi, però attenzione, non c'è il reato, il calcio legge Anna Frank, sarà letta negli stadi. E mentre invece il titolo del Corriere dello Sport è il calcio porta Anna Frank negli stadi. Oggi un minuto di riflessione su tutti i campi identificati, i 15 ultra, pensate, uno di loro ha 13 anni, la trovo solo sul Corriere dello Sport questa notizia, ma è fondamentale per capire che cosa è successo. Il Foglio, c'è un po' d'Italia nello studio che promette in tempi brevi la rivoluzione nel trattamento dei disturbi psichiatrici. Sapete che il Foglio ha sempre un soppalco un po' anomalo. E però il vero titolo, il primo titolo del giornale è: la fiducia su Rosatellum mostra che il vero travaglio non è nel governo ma è nell'opposizione. Poi c'è un fondo, attenzione, di Elsa Fornero, ne leggeremo un frammento, sul pensioni e Costituzione. Beh, una sorpresa, perché poi vi dirò che cosa sostiene. Il Messaggero apre sulla pensione a 67 anni, ecco la platea, cioè chi ne ha diritto. E poi l'editoriale, e continua la campagna che ha fatto arrabbiare Oscar, chi illude il Nord con promesse impossibili, Paolo Balduzzi, il gioco delle tre carte. Allora, rimane solo Repubblica, prima di iniziare il nostro grande slam fra le notizie. Rosatellum, altra fiducia, lo strappo di MDP, via dal governo, via dalla maggioranza, e il fondo di Claudio Tito, un'ipoteca sulla palude. E come ti pare questo? È sempre qui con me Giuseppe Caporale, direttore di Tiscali, che è segregato negli studi di Roma. Qual è secondo te, fra tutte le aperture, quella che avresti fatta tu? Beh, sicuramente l'apertura di Repubblica è l'apertura, come dire, che oggi racconta meglio la difficoltà, strappo nel governo, la difficoltà, no, di questa approvazione. Noi su Tiscali, attraverso un bel pezzo di Claudio Fusiani, raccontiamo quello che sarà, quello che in qualche modo consentirà questa legge, oppure purtroppo un salto nel buio, no? Siamo di fronte a un salto nel buio, perché con questa legge andremo a votare e non sappiamo effettivamente quello che succederà. E allora, prima di leggere i commenti e le notizie, i fatti e le opinioni, ci fermiamo ancora una volta per il meteo. Ma voi veramente non state bene, fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma vi volete rilassare? Mannaggia. Mattino. E dove cazzo è il mio cartellino? Ma che, sei diventato scemo? Sei andato in pensione ieri, il tuo cartellino non c'è più. E beato lui! Paolo Villaggio, alias ragionier Ugo Fantozzi, è riuscito ad andare in pensione. Oggi scopriamo che per gli altri è un po' più difficile. Allora, vi dicevo, dal Messaggero, qui trovo la cosa più interessante. Caro Giuseppe, Giuseppe Caporale con me al mio fianco. Allora, il paradosso, pagina 2, il Messaggero. Dentro le regole previdenziali vecchie e nuove ci sono anche i casi paradossali. In pratica potrà succedere che due compagne di banco nate nel 1953 vadano in pensione con 30 anni di differenza. La prima ha iniziato a lavorare nel pubblico impiego nel 74 a 21 anni ed è andata in pensione nell'88 a 35 anni utilizzando le regole allora in vigore e così sono state fino al 1992. 14 anni, 6 mesi e un giorno di contributi per le donne sposate con figli. La seconda, laureata, ha iniziato a lavorare a 26 anni nel 79 nel privato. Questa signora, oggi 64enne, dovrà aspettare per uscire dal lavoro il 2020 e andrà in pensione con oltre 30 anni di differenza. Ebbene, questo caso, che è un caso paradossale ma vero, secondo me ci dice che se queste leggi così severe incominciano a entrare in vigore per chi deve ancora andare in pensione, bisogna rimettere mano alla materia. Cioè, non è possibile che uno possa stare 30 anni in più al lavoro della sua compagna di banco. Sei d'accordo? Diciamo che è sempre più chiaro chi ha pagato e chi pagherà il conto di una crisi iniziata diversi anni fa, iniziata nel 2011, nella quale il paese non è ancora uscito. Il conto lo stiamo pagando tutti, lo pagheranno i pensionati di domani, lo pagheranno i giovani che non avranno grandissime opportunità di accesso al mondo del lavoro. Allora, un tempo le pensioni riguardavano gli anziani, ora sono il tema che riguarda i giovani. Oltre 80.000 persone, ci informa il Messaggero, pagina 3, Luca Cifoni, dovranno rinviare l'uscita. Spaccata a metà la classe 52, i nati da giugno in poi devono attendere ancora, ma per l'INPS fermare gli scatti costerebbe 141 miliardi fino al 2040. Ed ecco l'attacco del pezzo. 5 mesi in più al lavoro, anche se proprio non del tutto imprevisti. La legge che lega la data della pensione all'evoluzione dell'aspettativa di vita è stata votata nel 2010 e poi confermata e perfezionata con la riforma Fornero dell'anno successivo. L'adeguamento dei requisiti era già stato applicato due volte, nel 2013 e nel 2016, ma nel 2019 sapevamo che ci sarebbe stato un ulteriore scatto. Sì, lo sapevamo, ma adesso arriva ed è protesta. Allora io vado su il Corriere della Sera e vi leggo tre tipologie ancora, perché sono importanti. Ecco qua le pensioni e addio al lavoro, ecco cosa cambia. Allora, cosa accade nel futuro? Cococò 37 anni? È l'esempio che hanno fatto, che fa Enrico Marro e Domenico Comegna sul Corriere. Rendita 450 euro. Ecco che cosa guadagnerà un ragazzo. Perché? Il primo assegno non dovrà risultare inferiore a 2,8 volte, cioè quasi 3 volte, la pensione sociale di 1.256 euro oggi. Avrà certamente la pensione calcolata al 100% con il sistema contributivo. È ovvio che partendo dai 1.000 euro mensili che guadagna ora, l'assegno INPS sarà molto modesto. Potrà percepire a 67 anni o poco più, grosso modo, 450 euro. Primo caso, il Cococò, Domenico Comegna sul Corriere, a pagina 11. Ce n'è diversi, ma ve ne leggo un altro. Insegnante con 41 anni di lavoro, traguardo a 60 anni, però riscattando lo studio dell'università. Letizia, insegnante di scuola media, lavora da 15 anni e ha riscattato i 4 anni di laurea che ha appena finito di pagare a rate. La nostra insegnante è nata ad aprile del 75, per cui potrà lasciare la cattedra a settembre del 2044, ottenendo la pensione di vecchiaia all'età di 69 anni. Ed ecco il nodo del pezzo di Marro. Allora, un invito a riconsiderare il meccanismo di aumento viene anche dal sindacato dei medici, CIMO, CIDA, che osserva come i dati sulla mortalità dell'Istat mostrino un'Italia a due velocità, con forti squilibri, dove le donne del Trentino sono più longeve, vivendo 2,7 anni in media in più di quelle campane. Era il dato che leggevo prima, per chi ci ha sentito. E allora questo è il grande tema. Sono due indicatori, lo scalone automatico e poi c'è lo scalone imposto dall'aumento dell'aspettativa di vita. La verità, molto critica ovviamente, e il fondo di Belpietro una vita di lavoro per ricevere un assegno di fame. Andremo in pensione più tardi e saremo più poveri. Scrive Belpietro nella conclusione del suo pezzo: il risultato di questo passo, più che di istituto previdenziale, è meglio parlare di istituto penitenziale. Gioco di parole che però ci porta su un'altra notizia. Claudio Antonelli sulla Verità, attenzione, è il problema della Corte dei Conti, della Consulta, scusate. Lo Stato rischia di dover restituire ai pensionati oltre 10 miliardi perché sta arrivando una sentenza della Consulta sul bonus Spoletti che restituisce agli anziani un prelievo che avevano subito illegittimamente. Ed ecco che cosa dice Antonelli: ieri l'udienza definitiva alla Consulta, poi la sentenza che dovrà decretare la legittimità del bonus Spoletti ai pensionati o al contrario bocciare l'escamotage con cui il governo di Matteo Renzi aveva aggirato una precedente sentenza della stessa Corte. Il blocco della rivalutazione delle pensioni contenute nella riforma Fornero, scrive infatti Antonelli sulla Verità a pagina 7, era stato definito senza mezzi termini anticostituzionale. L'esecutivo a ottobre del 2015 emise un decreto con l'obiettivo di restituire circa 4,5 milioni di pensionati solo il 12% degli importi dovuti, a cui furono detratte altre voci. In pratica, la cifra bonificata nel totale fu di 2,8 miliardi contro i 24,1 spettanti, cioè praticamente è stato restituito un decimo di quello che la Corte ha considerato incostituzionale. Ma allora la mia domanda è: a che serve la Corte Costituzionale se quando decide che deve ridare i soldi, giusto o sbagliato, ma è la legge italiana? Che cosa succede se questa sentenza viene disattesa, come nel caso del bonus Poletti, cioè ti devo dare 10, ti restituisco 1? Andiamo al giornale, perché Signorini spiega cosa succede agli assegni. I ventenni dovranno aspettare, i ventenni di oggi, 74 anni. Dopo il primo aumento del 2013, 3 mesi dell'età pensionabile, e quello del 2016, 4 mesi, il prossimo scalino sarà appunto nel 2019, il che porterà l'età pensionabile a 67 anni tondi sia per uomini che per donne. Aumento di ben 5 mesi, messo in discussione più volte, ma poi confermato sia dalla Ragioneria Generale dello Stato e poi dall'Istat e anche dall'INPS. Scrive Signorini, il giornale, pagina 3. I prossimi adeguamenti avverranno con cadenza biennale nel 2021, già spunta un aumento di 6 mesi, nel 2023, nel 2025 e così via. Gli aumenti potranno essere di 2 o 3 mesi, quindi l'età pensionabile potrebbe aumentare di 12 mesi in 8 anni. O 12 anni. Nel 2031 l'età delle pensioni potrebbe arrivare da 68 anni un mese a 68 anni e 8 mesi. Un lavoratore nato nel 60 che paga contributi dal 1987 potrà ritirarsi a 67 anni e 9 mesi. Secondo lo scenario meno drastico, uno della leva 70 al lavoro dal 97 a 69 anni e 3 mesi. Dal 1988, con un contratto firmato dal 2007, taglierà il traguardo dei 70, come più volte denunciato da Boeri, presidente dell'INPS, che lo considera ingiusto. E allora ecco quali sono i termini delle pensioni. Andiamo sul referendum, dove parla il protagonista Zaia con un'intervista alla Stampa. E questo è l'assaggio di quello che discuteremo fra un istante, perché... era importante la Fornero. Ecco, la Fornero sul Foglio è tranchant, difende ovviamente la sua riforma e dice: non esistono solo i diritti acquisiti dai più anziani. Governo e Consulta si devono ricordare anche i diritti dei più giovani. L'indicizzazione delle pensioni al costo della vita è buona cosa per i pensionati, che possono così mantenere invariato il loro potere d'acquisto. Quando per il calcolo delle pensioni si usa la formula contributiva, l'indicizzazione può considerarsi coperta dai contributi versati durante la vita lavorativa. Allora ci fermiamo e Zaia subito dopo le strade. Ciao papà, sei un bello. Mattino. Luca Zaia parla a Mattia Feltri sulla stampa e l'intervista di un'intera pagina ha un titolo shock. Combatto come Pannella e Gandhi, accordo con il governo prima del voto. Non cerco la rissa, voglio tutte le 23 competenze, nessuno faccia il furbetto a Roma, sono tenuti a trattare con me. Chi vuole si legge tutta l'intervista di Zaia alla stampa a Mattia Feltri. Allora, dicevo che il caso di Anna Frank ovviamente fa da padrone sui giornali, e però un dettaglino, perché molto avete sentito, sul Tempo, a pagina 5, c'è una cosa curiosa: i tifosi della Lazio nella prossima trasferta dovranno andare al Dallara in una parte della curva intitolata a un deportato, un ebreo ungherese, allenatore di calcio, grande campione, Arad Weitz, e a lui è intitolata la curva. Non sono curiosi questi casi della storia, Giuseppe Caporale? Assolutamente sì, come abbiamo anche raccontato ieri su Tiscali attraverso anche un tuo pezzo. Cioè, il problema poi è capire se valga la pena o meno, no? colpevolizzare Lotito e squalificare sul la Corriere della Sera, negli stadi, i brani di Anna Frank, l'apertura di pagina 2 e l'intervista di Lotito che dice: sono sotto scorta per le minacce che ho ricevuto, in curva c'erano cori razzisti, svastiche, di tutti li ho combattuti, sono stati arrestati, hanno subito misure cautelari e sequestro dei beni, se la sono presa anche con me e con la mia famiglia. Mio figlio non è voluto entrare allo stadio per molto tempo, non è un caso che io viva ancora sotto scorta. Teme che la Lazio sia vittima di un complotto? Dico solo che mi aspetto che fra qualche tempo venga fuori qualcosa contro di me, e lo avremo fra poco. Quindi il protagonista del giorno è sicuramente lui, il presidente della Lazio, che è andato in sinagoga, come racconta Francesco Merlo su Repubblica a pagina 3, il grande pezzone. È un pezzo molto, diciamo, critico con la Lazio. Le gaffe non fanno più ridere, il gelo della comunità ebraica per i fiori di Lotito in sinagoga. È interessante cosa rischia la Lazio, l'ho trovato in modo molto chiaro sul Corriere a pagina 2. La Lazio rischia nuove sanzioni. Il procuratore federale Giuseppe Pecoraro ha chiesto alla questura un rapporto per chiarire con quale modalità la società del presidente Lotito abbia messo in vendita i biglietti della Sud a prezzo simbolico di 1 euro per gli abbonati della Nord, chiusa proprio per una sanzione del giudice sportivo contro i cori razzisti. E vi dicevo dell'identificazione. Sul Corriere dello Sport c'è questa notizia di chi sono. E sapete chi sono? Sono ragazzi di 15 ultra e uno a 13 anni. Pensate, a pagina 14 e 17 del Corriere dello Sport li hanno già beccati. Ci sono due minorenni. Il reato di cui sono imputati è istigazione all'odio. Rischiano il DASPO fino a 8 anni. Allora, la politica, molto rapidamente, è importante, su Repubblica c'è uno scuppetto di Tommaso Ciriaco, mi hanno detto, essendo calabro di origine, l'accento è questo: l'incubo PD su un foglio che simula le elezioni, noi al nord zero collegi. Infatti questa è la simulazione: in Val d'Aosta 0 seggi al PD, in Piemonte 0 seggi al PD, in Lombardia su 38 0 seggi al PD, in Liguria su 6 seggi zero seggi al PD, e sarebbe uno scenario che preoccupa molti parlamentari dello stesso Partito Democratico. Il Rosatellum sul Corriere pagina 5, la cronaca di Aldo Cazzullo: facce bendate, urla, traitori, traitori, così è passata l'imposizione della fiducia per 5 volte, pensate, sulla legge, oggi potrebbe parlare Napolitano. Travaglio sul Fatto: Caustico dice almeno abbiate un moto di indignazione, opponetevi senatori del Partito Democratico, non sottoscrivete questa legge e fatela votare da Verdini. Facile a dirsi, difficile a farlo. Toscani su Libero susciterà sicuramente indignazione, dice: quelli che hanno votato per l'autonomia in Veneto sono dei mona addirittura. E adesso andiamo alla pagina del Money. Thank you. Allora, vi dicevo, il Sole 24 Ore. A parte che c'è una cosa fondamentale, casa 2017, le nuove regole per comprare, vendere, affittare, perché cambiano le regole del gioco. Allora c'è una guida che si potrà avere con il Sole oggi, 80 pagine, pensate, le molte novità per proprietari inquilini introdotte nel 2016 e nel 2017. Lo abbiamo un po' annunciato, per affittare cambia totalmente la tassazione e si potrà fare la cedolare secca. Sono cose che riguardano noi. Telefonia, sempre l'apertura del Sole 24 Ore, e Pay TV, stop alle fatture ogni 28 giorni. Posso dire, meno male, basta il mese di 28 giorni per prenderci una bolletta in più. E grazie a questa manovra e alle proteste che ci sono state, Marco Mobili, pagina 22, adesso finalmente le grandi compagnie accettano questo principio, scusate se lo dico, anche se è impopolare, di decenza, perché non ci può stare il mese di 28 giorni. E infine, un'altra cosa importante, lavoro sui distacchi, nuove regole in Europa, Beda Romano a pagina 8, retribuzioni, indennità e bonus dei paesi di destinazione. Queste sono tre cose molto importanti che cambiano il modo in cui tratteremo e riceveremo il denaro, ma c'è qualcosa che sicuramente è molto interessante sul giornale, il gratta e vinci di Stato. Senti questa, Giuseppe Caporale qui a fianco a me, il gratta e vinci di Stato diventa e continua a essere una fonte di gettito, perché praticamente si continua ad attingere lì per avere un po' di tranquillità fiscale. Allora, pagina 4, eccolo qui. Il governo in rosso adesso gioca con il gratta e vinci. Giuseppe De Lorenzo spiega che Gentiloni ha prolungato senza bando la concessione per la gestione delle lotterie istantanee, il motivo cercare di fare un po' di cassa, ovviamente. Poi l'altra notizia interessante, Ignazio Stagno, cartelle esattoriali che botta, prescrizione fino a 10 anni, cioè si allungano di 8 anni i termini della prescrizione. Che dici? Beh, raccontiamo spesso di queste vicende sul nostro sito, su tiscali.it, e cerchiamo di dare voce e raccogliere quello che gli utenti poi ci raccontano. Sicuramente il problema delle cartelle esattoriali è un tema molto serio. 10 anni probabilmente per la prescrizione sono oggettivamente troppi. Allora, segnalazioni. Alberto Di Cataldo sul Corriere della Sera, pagina 19, è il figlio di una delle vittime degli anni di piombo. Nei giorni di Battisti fu ucciso dalle BR perché è considerato un aguzzino. Grazie a lui si lavora nelle carceri. È una nemesi importante. Bulli, sempre sul Corriere, la storia e su Avvenire a pagina 11, la storia del bambino down molestato, costretto a mangiare la merenda buttata nella doccia, aiutato da un 13enne, grazie a Dio esiste. Casette, il giorno, a pagina 10, sono state scoperchiate dal vento le casette che dovevano salvare i terremotati. Ancora una pausa, il GR delle 7.55, poi torniamo con i cani, con i gatti e con la mitragliata. A Radio 24 c'è Luca Telese, una volta al mese. No, tutti i giorni di primo mattino c'è anche Oscar Giannino.